solito appuntamento di Poetici Libri, che ormai è diventata una rassegna con un buon respiro nazionale, persone, autori che vengono da fuori Torino, e come sempre, come libreria, cerchiamo di dare spazio, no? Alla cultura che viene dal basso, alla cultura, no? Che spesso non ha accesso ai grandi media televisivi o della carta stampata. La cultura, per quanto ci riguarda, è anche cercare di lavorare con i giovani. Quindi questa settimana, per chi ci ha seguito su Facebook, due appuntamenti legati a un'esperienza di alternanza scuola-lavoro con un liceo, che si chiama il Liceo Berto, un liceo linguistico, dove abbiamo fatto un'iniziativa legata alla lingua spagnola. Il 21 era la giornata di lingua madre, quindi il cadeau di Belgravia per questo appuntamento di Poetici Libri sono due libri in spagnolo, uno di lingua spagnola, uno di Quevedo, uno di Machado, che trovate sul banco a fianco ai libri delle vostre poesie. Fare un applauso a Luca Nicolotti. Bravo Luca! Ci ospita, è uno dei pochi librai, penso, in Italia a interessarsi veramente di poesia. Interessarsi non soltanto per quanto riguarda le presentazioni di poeti che fanno parte di questa rassegna e altri, anche proprio per aver allestito, ecco, degli scaffali dedicati alla poesia, che sono qui e sono anche nello spazio nuovo, si chiama appunto al centrale legato al cinema centrale di Torino. Quindi ritroverete in questa appunto libreria un ampio spazio per la poesia. E soprattutto poi con Luca prima facevamo un discorso, no? In questi giorni si parla di ovviamente di cultura, anche in relazione ai confronti che ci sono elettorali. A Torino, nella cultura torinese, non bisogna dimenticare, insomma, il ruolo della letteratura, dell'editoria e della poesia. Insomma, Torino è a tutti gli effetti una città letteraria. Tra l'altro ricordavo che alcuni amici scrittori hanno realizzato tempo fa addirittura una mappatura del territorio torinese per andare a individuare i punti storici, ecco, legati agli autori che hanno segnato la nostra letteratura, e una mappatura potrebbe essere fatta anche oggi con gli autori che abbiamo sul territorio e con le iniziative che sono molteplici proprio sul territorio torinese. Di cui la nostra è una tra quelle più, secondo me, più attive e anche più attente a quello che capita sul territorio. Cerchiamo di, ecco, rappresentare, dare una rappresentazione quanto parziale ma avvincente di quello che capita nella letteratura contemporanea, nella poesia contemporanea italiana. Quindi richiamiamo di solito autori sia italiani, ecco, dai circuiti nazionali, sia locali. Quindi anche oggi succederà così con la poetessa appunto venuta da Roma e con altre figure che si muovono sul territorio nazionale e che abbiamo selezionato. Iniziamo a farvi le presentazioni. Ecco, l'ultima volta abbiamo iniziato con una rivista, abbiamo aperto con una rivista che era offerta speciale, una rivista torinese, territorio torinese vivo anche per quanto riguarda le antologie, le raccolte, le iniziative sul territorio, quindi sia performative sia cartacee. Ecco, iniziamo oggi con una rivista, un foglio, mi dicono i curatori, che si chiama Amado Mio, che è questa, che poi vi presenteremo. Un'idea che appunto è stata sviluppata e che coinvolge vari autori, poi lo vedremo con i curatori, con Luca Borioni, Borione e con gli altri appunto che sono qui presenti. Poi iniziamo con una appunto poetessa molto giovane e promettente, si chiama Gaia Ginevra Giorgi. Il suo libro si intitola Manovre segrete, ha anche un apparato critico molto consistente, con un'introduzione di Claudio Pozzani e finisce appunto con una postfazione appunto di Valentina Colonna. Un libro che sta anche riscuotendo molta attenzione con spettacoli musicali che la poetessa porta in giro per l'Italia, lei ce ne parlerà nello specifico. Poi proseguiamo con Anna Laura Longo, poetessa romana, con un titolo molto suggestivo, Questo è il mese dei rabbiosi incarnati del suolo, edito da Oedipus, un editore salernitano molto attento alla poesia contemporanea, e ne parleremo appunto con lei. Abbiamo poi Liliana Fantini, che presenta un libro che si intitola Chi ha notizie del mio vero presente, Ecco, un libro di una poetessa che è molto attiva in Piemonte, si muove fra Torino e Alba, e anche lei ha un'esperienza molto vicina con la musica, anche essa stessa cantante e autrice appunto di lavori che poi sono pubblicati anche in CD, non soltanto su carta, ma anche che riguardano l'aspetto musicale e performativo. E infine finiamo con una autrice torinese che si chiama Egle Bolognesi, e poi verrà l'Aurora di Impremix, e poi sarà l'Aurora. Ecco, questo libro che si avvicina di più alla vita quotidiana, quindi ad un'analisi, ad una vicinanza al poetare, la quotidianità, e ve lo racconteremo con la massima attenzione. Insomma, l'idea di Poetici Libri non è quella in realtà di fare quello che molti di noi fanno, cioè di fare uno spettacolo, ecco. È più che altro una esposizione, una presentazione, se vogliamo, più classica, ecco, un'esposizione che poi si vuole, ecco, confrontare con il pubblico presente. Quindi se poi avrete, ecco, in qualche modo delle domande, non esimetevi appunto da relazionarvi agli autori. Iniziamo con la prima appunto opera, Amato mio. Bene. Abbiamo Luca Corioni, ma se vuoi chiamare anche gli altri... Sì, dopo sì, chiamare, faccio da cornice, infatti. Ok, e tra l'altro so che ci sono in sala quattro autori che sì, fanno parte di questa raccolta. E niente, lascio a te la parola, soprattutto ti chiedevo prima quando nasce la rivista, e mi dicevi che nasce assolutamente in cartaceo, perché oggi ormai le raccolte, le riviste, per una questione anche veramente economica, non vedono più la carta, ecco, ma si trovano soltanto online, con grande difficoltà mia che non riesco più a leggere i PDF, divento pazzo, cosa c'è un PDF, sì. E questo è un argine alla mia follia, cioè, ed è Amato mio, che già dal titolo suggerisce, ecco, c'è già una citazione nel titolo che io intravedo, ma lascio la parola a te, sì, per presentare una canzone. Poi Marcello spiegherà, perché Marcello Croce è il mio caro amico, e l'idea di questo foglio nasce da lui, che mi ha passato appunto questo di fatto dono che abbiamo curato insieme, che stiamo curando insieme dal 2013. È un foglio di poesia, perché non è una rivista edita, ma autofinanziata, nel senso che è aperta sin dall'inizio a tutti quelli che hanno da dire qualcosa in chiave poetica. E in che modo si autofinanzia? Dico subito questa cosa molto concreta, terra a terra, perché siamo partiti anche dal foglio e non da internet, e appunto dal web. Ciascuno compra tre numeri della rivista e paga quel gettone ogni due o tre mesi, poi dipende, essendo una cosa un po' fatta in casa tra amici. Ma no, quando ci troviamo i numeri e facciamo cassa, funziona così semplicemente. Quindi il primo numero è questo, molto prezioso ormai evidentemente, perché è raro, e siamo arrivati al numero dell'autunno 2017. Adesso è in programma per la primavera, cadenza trimestrale appunto, il prossimo numero. Ci troviamo in un locale nel centro di Torino, e appunto ciascuno legge a voce alta i testi che ha voluto pubblicare in quella sede. L'idea nasce appunto da Marcello, l'ho subito colta, l'ho fatta mia evidentemente, quindi un'idea condivisa. Ed è quella di, io pur non scrivendo poesia, ne leggo tanta, sin da quando ero ragazzo, questa è stata l'occasione infatti, no? Da lettore che ho avuto io, quindi faccio da cornice, nel senso che dentro poi le voci sono altre e non la mia, io scrivo qualcosa a margine, ma insomma di molto limitato, però la bellezza è questa, leggere poesia per me lo è sempre stato, ho incontrato le persone che scrivono qui parlando in maniera così un po' casuale, passeggiando per Torino o in altri luoghi o a cena, e ho incontrato dei poeti tosti. Quando dico che leggo poesia, il poeta vero, no? Il poeta comunque ha piacere di farsi sentire, farsi ascoltare. Ed è nata così il foglio, quindi dicendo che leggo poesia. E attorno a me piano piano ho congolato, si sono addensate un po' di persone che piano piano stanno creando una compagnia di voci molto diverse, evidentemente, perché non è una rivista... non ha una poetica la rivista stessa, sono molte molto discordanti. La costellazione dei poeti a cui fanno riferimento le varie voci, i torinesi per lo più, ma non solo, anche della cintura, sono molto differenti, si va da Ezra Pound a Vittorio Sereni a Montale, insomma, i maestri ci sono, sono tantissimi, ma sono i grandi, e questo è molto interessante in qualche maniera coglierlo. Quello che ci accomuna è la volontà di farci ascoltare, vicendevolmente imparare, c'è anche un fine un po' pedagogico. nel senso che mi rendo conto che in 4 anni anche i ragazzini che sono affacciati, perché ho avuto anche alcuni miei ex allievi, io insegno filosofia, ho avuto qualche mio ex allievo che si è agganciato, cammin facendo, e sta imparando, confrontandosi con le voci mature, o comunque certamente degne, no, di essere conosciute più belle, evidentemente. No? In questo ascolto c'è anche appunto, in qualche maniera, una crescita pedagogica, per la così, a cui crediamo un po' tutti. Non siamo lì a cantarci da solo, ma anche ascoltarci, a fare un po' di... non le pulci, perché poi non c'è mai giudizio critico pesante, ma a sentirci, a dirci la nostra, in qualche maniera. Sta crescendo qualcosa, le occasioni anche di coinvolgimento sono più frequenti. La volta, settimana scorsa, per dirvi, abbiamo raccolto in una serata Massimo Morasso, che è venuto da Genova, con appunto Riccardo Olivieri, che hanno pubblicato entrambi per Passigli, per questa bellissima, per dirvi, no? È stata un'occasione bella di ascolto, e i due si sono parlati l'un l'altro, essenzialmente. In maniera pacifica. Pacifica, no? Sì, questo è il punto. Insomma, è una compagnia, chiamiamola così, molto aperta di persone che scrivono poesie. Torinesi, che non vogliono smettere, si può. No, no, perché continuiamo, è bello questo, anzi, sta un po' affinandosi anche. Poi insomma, dentro sono nomi di rispetto già molto affinati che mettono degli inediti talvolta, oppure propongono anche testi già pubblicati. Beh, la forza appunto delle pubblicazioni e delle autopubblicazioni, sì, è appunto questa, infatti. Sì. Noi tentiamo di proporre anche questo tipo di lavoro, anche perché la poesia ormai costeggia l'editoria a volte con successo, a volte no, quindi certo, il contatto è un po' diverso. Presto. Io non aggiungo tanto altro, perché vorrei far intervenire per l'appunto gli amici poeti che sono qui e che possono, certo, dire altro, da Mario Parodi a Marcello Croce, Alfredo Rienzi, prego, e Franco Canavesio. Io per me, no, direi che è la cosa migliore ascoltare anche la loro, sì, impressione. Quindi se volete... E dopo la cornice, appunto, Marcello Croce. Provo a dire una parola io? Sì, certo. È stato richiamato il titolo di questo, sì, di questa rivista, e mi piace brevemente, no, citare dal primo numero due righe che avevamo scritto io e Luca per dare una spiegazione perché amano mio, e si tratta di due righe molto, molto, forse un po' vaghe, un po' sfuggenti, ma forse era anche questo l'intento, no? Magia di due parole, amato mio, intorno ad esse si raccoglie un senso sorprendente, una luminosa cascata di capelli femminili e un movimento di danza del corpo e il buio tutto attorno. Languida, teatrale canzone, qui dette voce tanti anni fa la figlia di un ballerino spagnolo che al cinema si chiamava Rita Hayworth. Solo cinema, forse. Pure, nelle due parole della canzone si sente lo sguardo seducente della vita, l'ipotesi che la vita nutra una passione per l'uomo. Amato mio, come un canto della vita, è il fiore della poesia, la sua sostanza lieve e fatale. E infine basta con l'eccesso di logica, non si discute sul merito di ordine. Questa era la presentazione del titolo, e come ha detto molto bene Luca, i numeri che si sono susseguiti sono rimasti fondamentalmente sempre aperti a voci diverse. Si è posto un problema, e concedo solo questo, il problema è tenere un criterio prevalentemente selettivo, oppure lasciare un'apertura a diversi mezzi, diciamo così, di esperienza poetica. Credo che sia stato trovato un compromesso alla fine, cioè quello di non sacrificare chiaramente il livello e quindi anche la possibilità di insegnamento, che diceva Luca, il valore pedagogico che deve avere nella circolazione questa poesia, e dall'altra parte però tenere aperte le porte a chi incomincia o perlomeno ha appena cominciato e è desideroso di imparare. Ecco, questo criterio mi sembra che sia stato il criterio più equilibrato. Ecco, questo è tutto. Grazie, allora passerei ai poeti, così ascoltiamo alcuni brani. Voi... mentre sono qui, provo a leggere una brevissima, ne leggo una brevissima dal primo numero, se permettete. Questi secoli che rotolano giù si dissolvono nelle conche delle mani che chiedono acqua, acqua. Mani che aprono spazi ignoti dove è acceso un sole mite. Lì faranno il nido nuove rondini e labbra canteranno il loro silenzio con voci in memory. L'inverno passerà, passerà e una dolce sposa, perdonante, cucinerà un dolce di mele nella musica d'api. Occhi che dalle loro lacrime abiteranno perle, la pazienza del buio, generosa di aquiloni. L'ora si libera in un fruscio d'ali, l'ora è un petirosso di cenere e rose. Io vorrei fare passare Mario Parolo. Ok. Va bene. Io in questa generalmente inserisco delle poesie che non pubblicate, per vedere che poi succede, sei un provocatore. E questa poesia, una poesia questa qua di circostanza, nel senso che una mia cara collega andava in pensione, ho scritto una poesia sul fatto che andasse in pensione, se deve dire una cosa, che cito Pobieto perché suo papà era di Pobieto ed è sepolto a Pobieto, che è un luogo molto bello, romantico, vicino a Morano Po. Vieni Marina, usciamo, non stancarti di ammirare le stelle. Questo cielo non si riposa mai, è una sorpresa continua, protezione alla nostra stanchezza di vivere. Sono milioni, luce ai nostri dubbi, sentinelle misericordiose, scintillano ai nodi che dobbiamo sciogliere, la lacerazione della nascita, la lotteria del lavoro. A volte si staccano dal loro regno. Sono le lacrime di San Lorenzo, sono i consigli paterni di Gino, sussurri salmodiati alle preghiere millenarie di Pobieto. Sono resine generazionali. Vieni, usciamo. Le stelle sono un tappeto di fratellanza, paiono commuoversi quando spira il vento, terreno dell'amicizia. Allora brindiamo. I vigneti piemontesi trasmettono ciò che rimane della saggezza degli uomini. Franco Canavese. Buonasera a tutti. Io sono uno degli ultimi che ha raggiunto il gruppo degli amici di Amado Mio. È stata un'esperienza bellissima che continuerà, spero, per tutta la vita. Leggo la prima poesia che è stata inserita nel numero 8 di Amado Mio. Le stelle di Majakovskij. Stanotte non ce n'è una di stella e qualcuno sarà sazio, magari ubriaco di luce, perché in piazza se ne sono divorate tutte le zecche splendenti. Dice Majakovskij, quelle che succhiano la vita blu del cielo, l'annacquano e si fanno dense su cose forti, che appena riesce a mandarle giù una alla volta. L'ho provata la fame di stelle, su una panchina sdraiato col capo all'insù. Ne ho scelta una, la più vicina agli occhi, e ho tirato forte. Sibila l'aria, suona come il vento da una fessura quando prendi la prima e passa brillante tra le labbra. Fa il rumore liquido di un'ostrica, la inghiotti e vengono a dozzine una dietro l'altra che sono legate e non riesci più a fermarti, aspiri, suggi, succhi e si riempie il corpo di luce che scoppi. Uno di quelli che vanno in giro con la testa per aria, m'ha fatto una foto, sovraesposta. Somiglio a una luminaria, sovraccarica, fulminata di traverso la via. Alfredo Rienzi. Ma io sono molto legato a questo foglio perché l'ho visto un po' nato. Tra l'altro ringrazio Alfredo Lienzi perché in realtà è lui che mi ha proposto, diciamo, mi ha presentato questa esperienza che io conoscevo soltanto in parte. Credo molto nella connessione dei vari punti. Quindi è stato invitato prima come autore, poi mi ha detto guarda che esiste questa rivista di cui io faccio parte. Infatti magari sarebbe bello averlo ospite. E quindi mi è interessato quello perché penso che tutte le esperienze sono collettive, siano da indagare. Poi la poesia è di per sé stessa una dimensione collettiva che la narrativa non ha. Noi abbiamo bisogno di, un po' come gli alcolisti anonimi, di ritrovarci e di leggere le nostre poesie, no? Anche se, ecco, ovviamente potrebbe parere assolutamente inutile, no? Questo. Invece il poeta, a differenza del narratore, ha bisogno di una dimensione collettiva che poi continuamente si tende, si restringe, si infrange ed è una dimensione difficile da mantenere, ma si ripropone continuamente nella vita. E quindi no, è una riflessione. Sono lascio. D'accordo. In effetti è interessante poi la cosa del mantenere, dice, un'esperienza collettiva, è individuale. Ed è collettiva. Ma sono molto legato perché l'ho visto un po' nascere. Ho collaudato parecchi testi che poi sono confluiti nel libro che mi hai gentilmente fatto presentare la volta scorsa. Tra l'altro, sulle riviste cartacee qualcuno resiste. Di questi mesi, di questi giorni, mi sembra che Versante Ripido, che è una nota fanzine, stia cercando di andare corpo. Quindi c'è il numero uno, quindi qualche rivista tende ad andare su cartaceo. La Clessidra cerca di resistere, quindi qualcosa si... Perché la dimensione della lettura è diversa proprio. Allora, sono contento anche perché la prima poesia del primo numero è particolarmente piacere. Non avevo ancora i titoli che poi gli ho dato, questo credo poi nel volume si intitolasse Gimmel, la fiume, non ha cambiato. Di qua scorreva lento il fiume. Lo so, la metafora è come annegata nelle sue stesse acque. Il mare attende e la sorgente tace. Non considera del tempo la linea, il cerchio, il decimale della costante universale. Ascoltavi di me contraddizioni e dei flussi e con mani di rugiata lavavi il fango dai miei piedi. Ok, grazie. Questo è un clan tutto maschile? No, buttiamo già sulla critica di genere. No, leggo l'ultimo numero. E se ti dicessero di sì? No, leggo l'ultimo, sono molto più pochi rispetto alla prima, che non caso. Leggo l'incontro, Marta, Elena, Ines, Carla, Gabriella, Angela, su. Metà. Tutti cognomi però. No. Marta Battazzi, Elena Bonassi, Ines Bonora, Carla Cantini, Gabriella Menedeo, Angela Suppo e sì, più una metà. No, è vero. No, ma certo. E siccome non c'è. Vuoi i dati anagrafici? Ma non si trova, cioè si compra. No, questo per no. Si spaccia. Tra di voi. Non avendo una casa editrice non si può vendere in maniera così. È appunto un foglio, l'ho chiamato così perché. Italia, ci troviamo la sera stessa in cui lo presentiamo e lo distribuiamo. Sì, è tutto qui. La condivisione dei sì, non può che essere tale. Però è. Comunque stasera lo distribuisce. Ah, beh, certo, ma l'avete subito aperto, no, quindi era allargabile a tutti. Pensavo che fossero delle copie in più. No, più che altro. È proprio l'impostazione opposta. Non nasce da una scuola o da un clan, tutt'altro. È proprio aperto, come dicevo stesso detto. Difficile mantenere quell'apertura che punti anche diciamo sulla bellezza. La bellezza è difficile per l'appunto, però appunto c'è questa crescita costante, è un ascolto reciproco, secondo me questo vale, no? Altre domande? Su? Dove vi trovate sì, a lei? Dove ci troviamo in via Tartieri di Calandra 6. Una volta eravamo all'officina di Bohemien, quindi siamo stati qualche sì, comunque c'è un indirizzo email, d'accordo? Dovete fare riferimento. Grazie. Comunque ritrovate tutti i libri e anche la rivista nel tavolo appunto dei libri vicino alla casa. Amato mio. E poi passiamo al primo ospite, manovre segrete di Gaia Ginevra Giorgi, se vuoi venire qui. Allora, un libro che, la cui genesi ho un po' seguito io online, perché ricordo che l'editore aveva addirittura aperto proprio una sottoscrizione, un crowdfunding, e quindi ha avuto una nascita anche partecipata e anche molto contemporanea, nel senso che di solito è un sistema che viene applicato alla nascita di CD, di opere musicali, eccetera. Quindi è già curiosa la nascita, ed è un libro molto strutturato anche dal punto di vista delle note critiche, nel senso che si inizia con una nota di Claudio Pozzani, che è uno dei protagonisti, insomma, della poesia contemporanea italiana, anche organizzatore del Festival Internazionale della Poesia di Genova, e finisce con una nota di Valentina Colonna, che noi conosciamo anche come poetessa e musicista. Quindi è proprio contenuto, ecco, in questa nota critica. In questa tornata di quattro poetesse, che sono tutte poetesse, quindi a momento la donna può essere felice per riuscire a preparare, cerchiamo di mantenere la parità di genere, non siamo anche poi. Ecco, in questa successione ho tentato di prestare attenzione anche ai testi critici, quindi di capire, ecco, quale corrispondenza ci sia, ecco, tra il testo e la nota critica. La nota di Pozzani, devo dire, è molto adeguata, anche quella della Colonna, che e soprattutto emerge questo rapporto anche con una certa tradizione letteraria, con la poesia di D'Annunzio, con in qualche modo un certo panismo, rapporto con gli elementi, ecco, che si ritrova molto frequente. Si parla di sismicità, se non erro, comunque di sinestesia, quindi tutta una serie di appunto anche legami retorici e non solo retorici, anche esistenziali, ecco, che facevano già parte della nostra tradizione. Devo dire, ho molto apprezzato questo libro, e tra l'altro sono poesie molto misurate e secondo me che si concludono anche bene, viene sottolineata anche la capacità di concludere, secondo me, in una poesia la chiusa a volte ci dà più dell'incipit. E io quello che tento di fare quando scrivo una poesia è di chiuderla e concluderla nella maniera migliore. Quindi lascio la parola a te, e soprattutto se ci puoi raccontare qualcosa sulla genesi, insomma, sì, di questo libro. Allora, io non sono molto abituata a presentare il libro, nel senso che lo porto spesso in giro, però proprio in un'altra dimensione performativa, quindi è raro che... Però sono molto contenta di essere venuta qui, perché ho scoperto comunque questo luogo che vedo che è molto attento anche a tutta l'editoria indipendente, ed è raro. Quindi, allora, questo libro è uscito con l'editore Interno Poesia, che è un editore relativamente giovane, che è nato come blog letterario e ha fatto dei numeri allucinanti, fondamentalmente. Cioè, per la poesia contemporanea ha raggiunto in pochi anni un seguito enorme, e quindi Andrea Cati, che è, insomma, il direttore di questa rivista, di questo blog, ha deciso di diventare editore da ormai quasi 2 anni, un anno e mezzo. E il discorso che facevi prima sul crowdfunding non è precisamente un crowdfunding, nel senso che le persone preordinano il libro, hanno un mese di tempo per prenotare una copia del libro in preordine. Poi il libro si autodistrugge. Su quello, e lì la fine di crolla. In quel mese, diciamo che le persone possono prenotare una copia del libro, e con quelle prenotazioni il libro viene stampato per la prima... Le prime 200 copie vengono ordinate così. Quindi è un... Quindi non è di fatto un gruppo. No, esatto, perché non è che la gente... È più una non c'è prenotazione, una prenotazione che garantisce l'uscita del libro. Quindi è diverso, cioè non c'è un'offerta, viene proprio comprato il libro in sé. E, nulla, dunque, questo libro si chiama Manovre Segrete, il titolo prende, diciamo, il nome da una delle poesie che fanno parte della prima sezione. Infatti è diviso in 3 sezioni che si propongono di fare una sorta di viaggio. E appunto, partendo da una prima sezione molto dedicata a a una sorta di panismo con la natura. È una prima sezione, si chiama Pensiero Meridiano appunto perché parla di quel Mediterraneo radicale e radicato nei corpi che abitano questo Mediterraneo, che esistono in modo preconcettuale, preriflessivo. È una sezione dedicata ai sensi e al sentire tramite il corpo. C'è poi una seconda sezione che si intitola Osservatorio Domestico, dove diciamo lo spazio diventa una stanza interiore e quindi è la sezione un po' più intima del libro. E anche che insomma parla di più del rapporto quotidiano e ossessivo con gli oggetti che sono testimoni muti dell'esistenza, e anche probabilmente la sezione un po' più esistenzialista. Il libro poi si chiude con l'ultima sezione che si chiama La terra e l'attesa, che è la sezione più irregolare, a tema metropolitano, da Torino fino a Istanbul vengono... diciamo che si uniscono due visioni, quella del sogno e quella della città contemporanea e postmoderna. E inizierei a leggere qualche cosa dalla prima sezione. Avevo il respiro ingrossato, spezzato, mentre risalivamo il sentiero di pini odorosi tra il bosco e l'ombra che seguiva il tuo passo, di guerriero, di fuggiasco. Ogni pausa si imprimeva nel limo dolce come nella memoria, cristallizzate le viole e ogni gemito. Tra il sudore, il sale ed il sole, tra l'incanto e la disperazione, con la schiena spenta nel fango e con la bocca calda e bagnata, spalancata al cielo ispido d'estate, pregavo che la crosta del monte cedesse al mio peso e mi trattenesse da lì a sempre. Ma tu avevi la quiete dei vetri in testa, la quiete che sale dopo un gran piangere. Se si faceva attenzione, dall'alto si poteva osservare la schiuma di ogni onda covata dalla roccia, il rintocco delle campane dalla cima turchese scendeva sui nostri corpi come una sentenza. Aspetta, c'è dell'acqua se vuoi. Questa è la poesia che dà il titolo al libro. Nel pallore disperato di un qualunque risveglio, contavi i promontori vergini ed erano sempre tre. A guardarci bene, sembrava non fossero mai stati scoperti prima. Tu non te ne sapevi dar ragione. L'estate assorta, gonfia, veniva su dall'acqua, bollente di quarzo sfranto, come una donna già matura, con sacre braccia da oliveti ventosi e da altre manovre segrete. Sfumava al monte, culla di polvere e cristallo, saliva, medusa, leggera, leggera la nube sfilacciata. E non te ne sapevi dar ragione. Avevo fatto del tuo altrove un luogo abitabile. Passo alla seconda sezione, appunto Osservatorio Domestico. La prima poesia che apre la sezione è una poesia proprio dedicata al trasloco, fisico e mentale che, non lo so, è una dimensione dell'esistenza che frequento molto spesso. Questo nostro esistere ha la geometria della sedia a dondolo, dell'orologio a pendolo, il perpetuo moto del transloco. Ho confuso soffitti e finestre, i libri lo sai, li nascondo sotto il letto. Sopra il letto con cura ho riposto le mie ossa stanche e con esse un amore grande o piccolo, insonnia a cottimo. Penso a tutte le case che ho fatto e disfatto, sempre scalza e piano piano senza pianto, agli abat-jour che ho spento e riacceso subito dopo aver misurato la caratura del buio 1 milione di volte almeno pentita, come tutte le volte che nei muri ho piantato chiodi. Sovrappongo cortili a ripostigli, colleziono buchi della serratura, specchi malandati e lucernari immaginari, svuoto ricordi come cassetti, conto le tegole dei tetti per addormentarmi e non bastano mai. Anche i tuoi risvegli sono tutti uguali. Ma come amo aprire le mani e perdere ogni cosa. Vi lascio tutto, il gatto, il lampadario, la tenda, la tazzina, la rosa e l'acquario. Allora, intanto vi leggo un morso, potrebbero dire i francesi, di una nota critica della Valentina Colonna, che non c'è, quindi poi la cazziamo. Sì, no, davvero. Una cosa insostenibile, l'amica comune che non viene. Si avverte in questi testi forza e sensualità, la cura per i dettagli, la bellezza e il fascino della decadenza, impregnato di una forza dolce, visioni immediate che tendono a svanire rapidamente verso la sfocatura. Cosa intende Valentina? Valentina è molto barocca nel suo procedere. No, ma lo intuisco cosa possa intendere per sfocatura, ma come lo spiegheresti? Una cosa insomma che mi hanno in realtà fatto notare, perché quando poi, almeno io quando scrivo poesia non so che cosa sto facendo, cioè sono completamente in balia e dopo mi rendo conto di cosa ho fatto, cioè, ma tanto tempo dopo, tipo ora sto capendo quello che ho fatto qui. E poi è un po' schizofrenico. Fa le poesie, poi le rilegge. Ah, ma sono no, ma siamo tutti. Lo so, infatti, so che è una dinamica. Insomma, gran parte di noi penso abbia un po' maturi un distacco con la propria scrittura, esatto. E poi riveda. E forse è anche il metodo e il modo di valutare la bontà o meno di quello che uno ha fatto, perché vedendosi dall'esterno forse uno riesce a selezionare il proprio materiale e si spera ad evolvere nella propria scrittura, per cui il nostro è un percorso personale di crescita che dobbiamo riuscire, dobbiamo avere un superio piuttosto forte per riuscire a farci. Scusa se ti interrompo. No, e quindi credo si riferisca a, al discorso delle sospensioni, di questo grande respiro, di questa appunto sfocatura che sembra che io non voglia mai andare a chiudere un discorso, a mettere i punti. Infatti è un libro assolutamente senza punteggiatura, se non per qualche trattino delirante. Però ci sono ci sono gli spazi che tu usi in maniera... Uso gli spazi molto, esatto. In maniera, diciamo, frequente, e le pause le ricavi appunto dalla spazialità. Esatto, esatto. E dal fatto di avere anche dei versi molto, tutto sommato, molto brevi, nel senso come lunghezza, come vedete qui, no? Io sono... contribuendo all'impaginazione di un libro in questi giorni avevamo il problema, per cui i versi effettivamente erano molto lunghi, per cui abbiamo dovuto mettere la parentesi sotto, non avremmo avuto problemi con questo libro decisamente, e quindi è un testo secondo me che segue anche molto il tuo lavoro teatrale, orale, assolutamente, insomma performativo, quindi si sente questa, anche nella lettura si può intuire dalla forma del testo. No, no, è vero, non sono poesie scritte per l'oralità, perché quello poi è ancora un altro discorso, sono comunque poesie scritte per la carta, e però a me viene assolutamente naturale sentirle, proprio sentire il suono del verso, quindi si capisce che c'è un'interdipendenza. Come giusto che sia, visto che la poesia nasce, come ricordiamo, esatto, sempre come poesia orale, esatto, una poesia fatta insomma per essere portata a... ecco, in giro dagli antichi greci che appunto si muovevano sul territorio per andare a partecipare a delle gare che erano poi delle celebrazioni, insomma, sacre o sacrali che siano. Quindi non è una vita. Bene, vuoi allora leggere ancora una poesia e poi apriamo a qualche domanda. Ok. Leggo due piccole poesie dell'ultima sezione, allora. Dal ponte di Galata, un corno di elefante africano, ho visto il volo bianco dell'uccello che migra a nord, spalancato al grido della foresta. Se faccio attenzione, se resto immobile, qualche fiore avrà cura di me. E chiudo con l'ultima poesia che dà anche il titolo all'ultima sezione, quindi si chiama La terra e l'attesa. Scatto in avanti e rovescio la testa. Lo spigolo della ferrovia, lo spacco verticale della nuvola che insegna l'attesa. L'esecuzione impeccabile del vento, la sua rivolta. Oggi sono un animale pigro che piglia l'aria e caccia respiri, un frutto maturo, per poco appeso, un letto ancora sfatto. Sono una mattina, di settembre la pace, la tua, acqua del pozzo, un pugno di sassi gettato di sotto. Un pugno di sassi gettato di sotto, manovre segrete rimani qui. Gaia Ginevra Giorgi, avete delle domande? Qualche... Come scrivi? Quando scrivi? Dentro, fuori, camminando? Domanda interessante. Come funziona la tua creatività? Allora, non sono una scrittrice, diciamo, ordinata e costante soprattutto, nel senso che può passare un sacco di tempo senza che io scriva. E poi invece ci sono momenti in cui magari per tre giorni sto proprio chiusa in casa dal mattino alla notte e non esiste nient'altro. Quindi sono abbastanza in realtà schizofrenica nei miei ritmi. Ultimamente prediligo la mattina. Per anni ho scritto di notte, poi mi sono annoiata di questa cosa. E ora scrivo di mattina, mi piace molto la mattina e il letto tendenzialmente. Però so che è una cosa contingente legata a questo... periodo, sì, perché... Sì, di solito ci si aspetta da un poeta, da una poetessa, una scrittura notturna. Esatto. Sembra quasi un luogo comune. Esatto, penso, comune. Tu sei disgraziato, passi tutta la notte senza dormire, esatto. Al mattino devi essere rovinato e quindi vuol dire che scrivi poesia. Esatto. In realtà ti puoi rovinare per un mucchio di altri motivi, cioè non ci sta scrivere poesia. E quindi fa piacere di sapere che c'è qualcuno che ancora più. Ha una vita serena a dormire almeno qualche ora. E quindi soprattutto a mattina. In questo periodo, sì, ultimamente sì. Bene, ti ringraziamo, ricordiamo grazie il libro Manovre Segrete di Gaia Ginevra Giorgi che ritrovate nella nostra collezione appunto della Libreria del Gatto. Poi passiamo ad Anna Laura Longo che viene da Roma, quindi ha fatto un bel viaggio e con un bellissimo titolo secondo me, questo è il mese dei radiosi incarnati del suolo. Un titolo insomma molto ricco, ma che io amo molto anche i titoli che hanno una certa lunghezza pericolosa, per così dire. Ha una postazione anche molto, molto curata di appunto Cesare Milanese, dove si tenta di ricostruire anche il lavoro, ecco, dove si accenna spesso anche alla positiva, ecco, feconda criticità di questo libro, ecco, anche se io avrei anche un po' una critica, nel senso, secondo me la poesia di per se stessa è critica, altrimenti sarebbe narrativa, cioè, secondo me è nel linea di massima quasi, insomma, la criticità della poesia è, insomma, un dato... Non dico sì, esatto, sì, non dico che sia, ovviamente... però di gran parte della nostra poesia. Ed è una poesia che anche questa fondata sulla brevità, che io ho molto amato, devo dire, come libro precedente della Giorgi, e che muta continuamente, che risuona, che gioca anche sulle parole, su un certo sperimentalismo. Qui ho trovato anche un intervento manuale. Sì. Praticamente tutti i miei libri contengono degli inserti materici, possono essere disegni, collage, oggetti incollati, elastici, via dicendo, perché c'è molto questa componente anche tattile, le chiamo proprio angolazioni tattili, perché c'è la possibilità poi di passare le mani, di sentire le asperità rispetto alla carta e soprattutto di avere una visualizzazione, un'immagine spesso di carattere astratto come questo qui, insomma, che... Ma questo intervento manuale è presente in tutti i libri o solo in alcuni? Soltanto in un certo numero di copie e li realizzo io stessa. In genere gli editori mi rimproverano anche perché poi mi dicono allora tutti gli autori ci chiederanno insomma di fare queste cose. E vogliono, suppongo, il libro elastico perché non immagino così come uno yo-yo che non si porta in giro. Ed è un'idea molto... Che riecheggia molto alla mia avanguardia, nel senso che la rivista che abbiamo presentato l'ultima volta, Offerta Speciale, è proprio fondata un po' su questo lavoro, no? Di interventi manuali, quindi sono felice che ci siano, e quindi un'integrazione che dimostra, secondo me, la tua vicinanza ad un lavoro di poesia di ricerca, secondo me. Beh, o no? Penso di sì. Bene, ci vuoi raccontare la genesi un po', perché sei autrice di più pubblicazioni, sì. E quindi si inserisce in un percorso tuo abbastanza eterogeneo, diciamo. Intanto vorrei fare una premessa, oltre ad essere autrice di poesie io sono anche musicista ed artista visiva e quindi simultaneamente coltivo questi tre terreni, diciamo così, che secondo il mio punto di vista hanno dei confini mobili e difatti anche ciò che io produco aspira proprio ad avere questa direzione di interferenza tra i linguaggi, tra i diversi tipi di espressività. Detto questo, veniamo appunto a questa mia raccolta, la quarta nello specifico, che si intitola Questo è il mese dei radiosi incarnati del suolo. Questo lungo titolo, che è propriamente un verso, di per sé già un verso, ho voluto sceglierlo perché già nella soglia mi piaceva l'idea di responsabilizzare me stessa, responsabilizzare il libro, la parola. E dal punto di vista architettonico il libro ruota intorno a due poli attrattivi, la radiosità appunto e il suolo. Di quale radiosità parlo? Radiosità degli incarnati, ma come dice appunto il critico che si è occupato della fosfazione, è una radiosità del mondo auspicabile, visto che in quest'epoca abbastanza tumultuosa, turbolenta e caotica, probabilmente una radiosità è desiderabile, secondo me anche costruibile. Quindi in realtà il libro è anche un inno alla costruttività. E non c'è quasi mai necessità oppure un ripiegamento, ma invece c'è la volontà di vestire i panni combattivi della resistenza. Resistenza nel quotidiano, resistenza anche ideologica, che può diventare anche fatto politico, fatto soprattutto attivismo nel mondo, come posizionamento specifico nella propria vita e nel rapporto con gli altri. Quindi ecco, da una parte c'è questa radiosità, dall'altra parte c'è invece l'importanza del suolo. Anche in questo caso però il suolo non è da intendersi propriamente o solamente come un suolo geografico, topologico, diciamo così, ma un suolo appunto umano. Un suolo fibrillante, un suolo sismico anche. Per me la sismicità ha un valore positivo nel senso che determina il suo movimento, quel suo movimento che può portare a un rovesciamento delle zolle appunto che sono sempre in rapporto con la nostra esistenza, le zolle della nostra esistenza. Da una parte quindi appunto la radiosità, dall'altra il suolo e abbiamo poi anche però l'importanza anche della condizione e specificazione spazio-temporale che in questo caso è circoscritta visto che si dice questo è il mese, però ho voluto anche lasciarla molto indeterminata perché nessuno probabilmente saprà, io stessa forse non so di quale mese si tratta, si tratta semplicemente appunto di una, un focus, di una focalizzazione di tipo temporale che porta quindi a far luce su un momento. All'interno del libro poi si passa continuamente anche alle segmentazioni proprio del tempo, quindi il giorno e quindi anche le ore e così via, cioè questo ritagliare lo spazio, frammentarlo, segmentarlo, però anche dilatarlo, e infatti poi si arriva dopo tutte queste segmentazioni anche a ipotizzare una atemporalità, una squisita atemporalità sperabile. E, diciamo, essendo i testi abbastanza brevi, li leggerò in forma di accorpamenti, diciamo così. E, la prima triade di testi che voglio proporvi vuole comunicarvi proprio questo stato di fibrillazione a cui accennavo poco fa, e, una fibrillazione appunto che evoca una quantità di energia, una quantità di energia ribollente e direzionabile da indirizzare verso un scopo, verso una meta, un dato preciso. Gli esploratori si addenseranno acuti sulle presunte linee della scissione. Indolore è il passo nel dibattito del rinnovamento. In auscultazione il corpo giungeva, commensurabilmente urtato da onde nella promiscua e intrepida sismicità del mare. Segni di permutazione e voli in crespi sentieri, strabordanti anelti per snodi vocali accesi, nei cui larghi sfondi si ergono evidenti forme di quasi pendii e di inarrestabili sogni avvenenti come ululati. Tempo inverso del segmento, se ripescando il fluido azzardo, il corpo mieteva e vellutava il giorno di sapiente e inedita levità aurorale. Anche gli occhi sono calzati. Di abbondanza o assiduo nitore, implacati, i colpi incedono tra sentori obliqui, rilasciando lembi di germinazione su fragranti zolle di prestante ardore. Presto hai impugnato il giorno come una drastica medicina, avida e opposta, spazza in giardino una canicola appena usurata. Maturavano i tempi e qualcosa pareva unirli verso un'acme segreta. Ecco, questa era la prima triade, diciamo, di componimenti che volevo proporvi, dove appunto già affiora questa idea del giorno, impugnare il giorno, che significa farsi carico anche con una dose di coraggio e di edificabilità appunto del proprio tempo, quello personale, quello che può essere costruito attraverso l'altro. E rispetto alla relazione con l'altro, è importante per me questo testo che segue, dove si parla dei volti, l'importanza del volto, e che è raccoglitore anche di sguardo. Ho dedicato un mio lavoro invece di tipo installativo proprio allo sguardo. Chi di voi, ne approfitto anche per segnalare magari il mio sito, dove si possono ritrovare anche le immagini di alcune mie opere visive. Ho disegnato ad esempio queste pseudo montature di occhiali, si chiamano occhialoidi, che servono proprio ad enfatizzare lo sguardo, ad acuire lo sguardo sul mondo, e sono montature in ferro particolarmente eccentriche, bizzarre, di stile neo-dark e alquanto surreali anche. E c'è quindi in me questa necessità proprio di sottolineare l'importanza della visione, una visione che però porta e che conduce verso l'esterno, ma anche una visione che induce a dirigersi verso l'interno. Non so se avete notato anche nella precedente poesia il termine auscultazione, che spesso sostituisco con il termine ascolto. Come sapete bene, il termine auscultazione è tratto dal linguaggio medico e fa riferimento appunto alla possibilità di entrare molto nel profondo, spesso nel torace, nell'addome, per cercare di capire quali siano le funzionalità di certi organi. Per me l'ascolto e l'ascolto della poesia è proprio questo, è una forma di auscultazione. È affascinante, credo, anche la parola, perché appunto ha una sua quasi ridondanza, però comunque abbastanza densa. E quindi appunto dalla auscultazione alla relazione, dalla relazione con il proprio mondo interno allo sguardo rivolto verso l'altro. Il testo che sto per leggervi parla proprio di questo, appunto. Come torrenti i volti avanzano con quantitativi di ombre araldiche o mute. Nell'eterogeneità delle lotte ogni sguardo è cambiato, ogni passo è nudo ed affusolato nel mare. Un prolungamento del suono sfiora il collo adunco, confluendo in un cardigan, ricercando luoghi di acerbo e vivo ristoro. Come torrenti i volti inarcano il mondo sinuosamente. Il tuo sguardo cresce alberato in una sete viva e mutevole, ha militato infatti con presumibile e innato fulgore. Notte tempo il viale appare ossuto, sottilmente ricoperto di rame. Le limitazioni scarne si distanzieranno dal bollente sfondo indifferenziato, mentre gli occhi aguzzi, come increduli sobborghi vivi, troveranno un posto sul profilo di un uomo. Brucia sotto il sedile, senza infingimenti, la tua bocca esplosa e fiorita nella carenza di spazio. Anche i sogni vengono riguardati. Brucia sotto il sedile, un barlume ornato di coraggio ansante. Ed ecco qui appunto il coraggio a cui alludevo precedentemente. C'è poi molto anche questa parcellizzazione quasi del corpo, oltre alla segmentazione temporale, quindi il passaggio dal mese alle ore, alle più piccole porzioni del tempo, c'è anche la segmentazione del corpo, appunto dagli occhi alla bocca, la bocca che lascia passare, che lascia fluire, la voce che diventa canto. Io definisco una cavità ruvida, a tratti pastosa, ecco. L'importanza anche del sogno, io parlo proprio di una effervescenza del sogno. Anche il sogno, secondo me, può in parte essere costruito, diciamo, può essere ridensificato continuamente attraverso il nostro contatto con la realtà, oppure il nostro formare delle ipotesi di irrealtà. E quindi ecco questa combinazione continua tra realtà e realtà probabilmente poi finisce e viene quasi può essere deglutita, diciamo, nel sogno e ricomparire in forme inusitate, anche inattese. Vado avanti ancora con qualche lettura, posso. Sì, se vuoi leggere ancora una poesia, poi ti chiediamo, facciamo qualche domanda. Sì, allora, in particolare adesso. Sì, su questa qui. Poi vorrei fare una domanda a questa bambina, perché il suo parere secondo me è fondamentale. Va bene. Non su di te, su quello che portate dire fino alla fine. Poi ci direi qualcosa, vero? Sento di sì. Uno sguardo molto critico, come giusto che sia. Risonanze nell'alta penombra, buio tuffo mortale sulla cute flebile. Resta il volto anticato in virtù di un'iridescenza. Non vi è traccia di ombre, né di acuta ferocia quando il corpo voce si unge e vibra in una forma di avida resistenza. Sgorga un raggio ansante per l'intensità del dialogo, se arretrando. Il cupo inverno forgia un grido di trasformazione. Grazie. Allora, Anna Laura Longo, questo è il mese della Giorgia di Paranaggio del Suolo. Una cosa che ho notato che, come libro precedente della Giorgi, contengono una trentina di poesie, più o meno. Una misura che è sempre più vicina delle raccolte che vanno intorno dai 30-40 poesie, siamo più di lì, insomma, dai 30-50 poemi, insomma. Secondo me era il numero giusto, per almeno in questo caso, forse poteva essere poi ridondante, data anche la natura di questi testi, che sono appunto, come abbiamo detto, un po' criptici, un po' astratti, ecco, c'è anche molta astrazione, per cui poi dilungarsi troppo poteva un libro magari abbastanza leggero, insomma, agile e portatile volatile, vorrei anche volatile. Edito da Oedipus. pronuncia di questo editore ci voleva un costo di formazione. In realtà ho capito poi che lui voleva, insomma, scorporare le edizioni, buone, Edipus, quindi ha messo Ed, cioè, ho capito molto. Comunque è un'opera secondo me estremamente interessante. Avete delle domande? Secondo me c'è anche un rapporto fra tutti gli autori che ascolterete oggi, questo rapporto un po' che segue la vena teatrale, musicale, come vedremo anche poi della Fantini. La mia non è una domanda, sono rimasta colpita dalla definizione degli occhi come increduli, sobborghi. Sì. Bellissimo, complimenti. Mi è piaciuta questa definizione. Questa non vale per la domanda perché è una... No, sono rimasta colpita da questa definizione. Anche tu sei rimasta colpita quando l'hai scritto? Io ho semplicemente così ritrasmesso. Ecco, una domanda ce l'ho io, perché di solito c'è nella produzione di un poeta, e anche chi scrive, una poesia o due o tre poesie che ci sono più che se care o che noi riteniamo funzionino meglio, vero? Cioè, almeno sono quelle che magari di punto in bianco ci sentiamo di performare lì per lì, un po' perché ce le ricordiamo di più, un po' perché le sappiamo magari a memoria e le altre ci sfuggono di più. Non lo so, io ho questa percezione. È anche così per te oppure no? Sì, ce ne sono alcune anche più simboliche, diciamo, che mi rappresentano maggiormente, che sento con più vitalità. Non so se vuoi. Sì, una, dicene una che però, potremmo... Allora, devo attingere un altro raccolta, penso che sia possibile uscire, certo, da questi confini, okay, no? Certo. Sì. E, anche in questo caso c'è appunto l'importanza dello sguardo, uno sguardo che recide e domanda nello stesso tempo, e si intitola Approfitta del buio. Prego. E, se possibile, si potrebbe anche fare a luci spente, visto che parla di buio. Non so come spegnere le luci, però posso chiedere. Se altrimenti non... Sì. Mi aiuta il padrone di casa, che adesso toglierà le luci e quindi rimano per sempre al buio. Buio? Sì, così. Ottimo, va bene così. Buio? No... Com'è buio? No, non esageriamo. Approfitta del buio per immergere un panno nel lago. Permeare di cera la spina dorsale, dare prova di innalzare lo sguardo. Qui lo sguardo, peraltro, ha uno snodo. Una sua militanza, tu approfitti del buio per lasciarti vegliare, sopraffare dalle cime di un'occulta muraglia. E poi, quando il panno è asciugato, ora il panno è asciugato, quando è forte il tremore alle mani, il tuo sguardo persiste, ma recide o domanda. Le gambe per me sono state indovine, lucide di olio solare, e su un tratto di terra battuta hanno preso a schierarsi, a sondare. Le gambe per me sono state indovine, lucide di olio solare, e su un tratto di terra battuta hanno preso a schierarsi, a sondare, dare. Allora, grazie a Gianna Laura Nome, intanto aspettate che ricordiamo la luce, il territorio, il territorio della poesia. Questo è il mese dei radiosi incarnati del suono, e ringraziamo anche Anna Laura per il viaggio che ha fatto da Roma per raggiungerci. Grazie. Io volevo chiedere che strumento suoni, e poi soprattutto... Una domanda sola, perché se no non ce la facciamo... Vai. Ho questo buio con queste allitterazioni di Herbert continue, mi ha dato l'impressione di andare con un treno in una galleria buia, appunto, e sentendo dei rumori ferrigni di binari, per cui desideravo di tornare fuori. Quindi era un'affermazione più che una domanda. Sì, e che strumento sono? Abbiamo risposto alla domanda e passiamo a Liliana Fantini, che ha notizie del mio vero presente. Rimanete incollati alle sedie, un libro che Liliana mi regalò nel lontano 2015, l'estate 2015, che ho letto già alcuni anni fa, Liliana è anche attiva con me, cantante, musicista, cantautrice, e quindi questi versi hanno ricevuto anche la forma musicale, insomma, sono stati messi in scena. Liliana vive ad Alba, sì. E l'introduzione di questo libro è di una scrittrice proprio albese, che è Silvia Longo, che tra l'altro è un'introduzione che mi ha molto, ecco, interessato, perché è essa stessa nella forma del verso, cioè, per cui riporta i miei, esatto, sì, ma anche la stessa introduzione ripercorre, ecco, alla capo tipico della poesia, per cui sfogliando il libro cercavo l'introduzione e non la trovavo, diciamo, dov'è l'introduzione, perché uno cerca la forma, la giustificazione, ecco, la formattazione del testo classico, invece in questo caso questa cosa mi è piaciuta tantissimo, e quindi farò i complimenti alla Silvia Longoltre per questa idea. La poesia di Giuliana Fantini è una poesia che secondo me si intreccia molto bene, come quella di Hegel e Bolognese, vedremo dopo, con la vita quotidiana, ecco, che sa entrare, ecco, nel rapporto delle cose, del sentire, della vita quotidiana. Quindi questo è ciò che mi viene da dire nell'immediato, un rapporto forte con la quotidianità e con le con dei margini quasi diaristici in poesia, nel cantare, ecco, la percezione quotidiana. Non so se condividi, se ritieni che sì, l'analisi... Sì, mi piacerebbe raccontare anche un minimo della genesi di questa, di questa raccolta poetica, e dire, iniziare così, non è mai troppo tardi, perché mi piacerebbe potervi dire ho scritto poesia fin da bambina, ma o fin da adolescente, ma così non è stato. Io ho cominciato a scrivere veramente pochi anni fa, in età matura, cioè ho... tra un mese compio 60 anni, e quindi verso il 2010 ho cominciato a scrivere. Sono sempre stata innamorata della parola, così come della musica, innamorata della parola come suono, come vibrazione che dà emozione, ma ne fruivo semplicemente, non pensavo di poter io espormi ed esprimermi con la parola. Avevo una sorta di sordità emozionale che non mi impediva di ascoltarmi, evidentemente. A un certo punto, non sto a raccontare i dettagli della mia vita, è successo che è arrivata questa vena creativa che io ho accolto. Però hai creato la curiosità, non mi stai capisci che da Luca si sta prendendo notti, scoma, non lo stai dicendo, dopo glielo chiedo. Beh, no, diventa troppo lunga. Un dettaglio della vita. Posso solo dire che solitudine e silenzio, che prima non c'erano state, solitudine e silenzio sono stati gli ingredienti fondamentali per fare fluire finalmente questo flusso creativo a cui ho dato finalmente retta, per cui c'era, insomma, la vita alle spalle ce n'era abbastanza, così come le esperienze, così come le emozioni, per cui c'era tutto questo materiale, questo magma incandescente sotto questa crosta, all'improvviso è esploso. Sta arrivando adesso, per vedere se stai illuminando la stanza. È esploso all'incirca nel 2010, dando origine a canzoni inizialmente, quindi a frasi musicali che poi hanno dato origine a due album musicali. Ho pubblicato Correvoce e Libellula a distanza di 3 anni. E sono canzoni in atmosfere varie, jazz, tango, pop, salsa. E naturalmente esprimono tutto un mondo di emozioni e di esperienze. Tra la pubblicazione dei due album musicali ho cominciato a scrivere fitto, in maniera continua, poesia, e sono rimasta, poesia a modo mio naturalmente, sono rimasta, per quanto mi riguarda, piacevolmente sbalordita, ma anche un po' intimorita nei confronti della poesia, perché insomma non l'avevo mai praticata. E così mi sono fatta aiutare nel senso che mi sono fatta sostenere da due amiche che scrivono poesia, di cui una è proprio Silvia Longo, che è l'autrice della bellissima prefazione. Ma alle spalle avevo, qui al fianco mio, avevo anche idealmente un'altra poetessa meravigliosa, che io, se non conoscete, è Mariangela Gualtieri di Cesena, che io adoro, e la cui lettura delle poesie, che sono ad una leggerezza e di una profondità e contempo, insomma, mi hanno dato proprio la spinta per dire: Oliviana, scrivi, anche le mie amiche mi esortavano a scrivere. E quindi le poesie poesie, così come le canzoni, procedono per contrasti di luce e ombra, di sofferenza e gioia, e naturalmente nei versi c'è questa sorta di gusto musicale, insomma, che mi appartiene, che mi è sempre appartenuto, per cui faccio un po' fatica a sottrarmi da questa scansione ritmica del verso. È divisa in sezioni, vi racconterei appunto a proposito della raccolta, è divisa in sezioni. E inizia con Bussa Poesia, la prima sezione, dove io racconto proprio il mio stupore nei confronti di questa ospite in attesa che si materializza alla mia porta e che chiede di entrare. E dice appunto: Bussa Poesia, scomposta, schiva, invoca un posto dentro le mie stanze. È una poesia ancora non comprendo, non è ancora decodificata, ma risente comunque dell'urgenza di dare un senso a questo stare su questa crosta terrestre. Le sezioni successive, le due sezioni immediatamente vicine, sono l'ombra e la luce, proprio per raccontare i contrasti. L'ombra, la sezione, l'ombra si chiama proprio l'ombra, dove le emozioni sono quelle più dense, la tristezza, la paura, la rabbia. Ve ne leggerei una, ma non indugerei proprio per la densità. A chi importa chi io sia? Alla genia galattica, marziana tutto al più. Terrestre è urlarsi addosso, sordi all'ascolto, prodighi di moniti non chiesti. Lo so, cedo alla trappola. Il giudizio ridacchia puntando il dito a denunciare colpe, manchevolezze, pagliuzze d'occhi altrui. Ma grida, l'io, non visto, trasparente, ingorto d'amore, di casti abbracci privi di interesse. Chi ha notizie del mio vero presente? Non importa. Un po' come ci sono abituata. Chissà in quale nucleo di galassie il mio destino seguirà la strada, se scia di fotone rilucente o vuota supernova collassata. Proseguiamo invece con la sezione luce, essere sé, è proprio il titolo della sezione, in cui c'è una sorta di ricerca, una sorta di speranza, di fiducia nella vita, di anelito alla risoluzione. Vi leggerei un paio di poesie. Essere sé, per il giorno intero, la lancetta complice, a giro, senza affanno. Giungere a sera con l'energia di un bimbo e sul piatto crollare come un sasso per destarsi più giovani di ieri. Se stessi, con labbra inclini a declinare il riso. Il mare verde delle mie ossa se ne infischia degli anni in scorrimento. Basta un sole d'aprile a rinsaldare suture fragili, argini in smottamento, oltre ogni dubbio. Morirò in inverno, con un scheletro e pensieri di poltiglia, eppur finché mi meraviglia un'alba, un frullo d'ala, un non ti scordar di me, fragranti lievitano le membra, il cuore dolce, la scorza forte e ambrata, di chi traversa il giorno e fa preghiera. C'è all'interno di queste poesie della luce, come le chiamo io, una sorta di pace ricercata e raggiunta a tratti, spesso anche grazie alla pratica meditativa che ho avuto modo di incontrare e che pratico quando riesco a vincere le resistenze quotidiane, oppure grazie all'osservazione della natura che nella sua sacralità permette di ritrovare se stessi. L'odore dell'acqua confonde da tre una sponda. Non distingo il mare, il rivo, il fiume di casa, gabbiano in penombra. S'acqueta nell'ansia del cuore il tremore d'ansia che prima smarrito. Un attimo ancora che possa riempire il mio vaso di linfa, tornare più salda alla stanza. Ancora decide la vita, i panni distesi nell'acqua. E sì, c'è una poesia in cui mi sono avvalsa della collaborazione di un amico che dipinge grafico, che ha così disegnato delle parole, ed è l'unica in effetti, è una piccola poesia musicale dove parlo anche, dove racconto anche qui della, di questa pratica meditativa che mi permette di riappropriarmi della mia regalità di donna, della mia consapevolezza di essere contesa tra forze contrapposte, ma in qualche modo facente parte di un disegno più grande. Mi trovo davanti a una candela. Un punto di luce, tra petali a girandola, rossi oro screziati, sotto cerule e palpebre esplode in mezzo al buio. Fiamma calda che scalda di tremula candela, la cera liquefatta è lago di montagna e la sua vetta bianca forte si staglia e calma. Collage di ritagli, colori accavallati, scritte in spirali a centuplicarne il senso. Ovunque è il posto giusto, sono regina, il viaggio è frammento di infinito. La mia mano ha capito e delicata plana sulle acque del mio viso. Allora, prima che parti delle domande, sì, io mi ero... Finito, perché ne avrei un'altra, probabilmente no, ne avrei no, migliaia. No, decido però... io quale l'ultima. No, sì, non so scherzare. Un'altra... No, scherzo, poi se vuoi... Fare. Sì, certo, grazie. Però vorrei sì. Che leggessi questa, sì. Vero che è quella che vuoi leggere, questa qui? Pensavo di leggere quella, in effetti. Vabbè. Allora, una poesia che ho molto, che mi è molto interessato, ma le parlo di non disturbare, che è appunto questa, e poi vediamo perché. Okay. Sì, è tratta dalla sezione appesi a un film dove scompare l'io narrante e c'è il noi perché insomma c'è la consapevolezza che siamo legati da un legame indissolubile, siamo tutti simili con le nostre debolezze, le nostre aspirazioni, il nostro bisogno di essere amati. Dalla galassia la suggestione è un'altra, una briciola apparrebbe esagerata. Al fine siamo meno di un granello. Ho inviato lì, nel firmamento, un frammento di cervello a esplorare, a sviscerare la genesi del male. Sentire l'abbandono della madre nel mare planetario di abbandoni. La visuale incommensurabile riduce il tutto infinitesimale. E il viaggio di ritorno è più felice. Se solo ricordassimo che siamo un puntolino nello spazio. Se solo ricordassimo che siamo un puntolino nello spazio, dimostrazione che la poesia serve a darci coscienza della nostra esistenza, a differenza di altre discipline, ci permette, ecco, subito in poche parole, ecco, di focalizzare la nostra condizione esistenziale. Il minimo, puntolino è il minimo, ma anche il massimo, perché siamo nello spazio, siamo parte di una galassia. E nulla, chi ha notizie del mio vero presente, il libro di Liliana Fantini, avete delle domande? No, io voglio, ne voglio fare un'altra perché ho portato uno strumento, posso farlo giù, dai, una sola, dai, bene, veloce, sì, bravo. Allora, si tratta di una poesia che rileggendo mi sono trovata a cantarla, è tratta da una sezione Re di assomiglianza che parla degli ultimi. e si lega indissolubilmente alla copertina. La copertina è un dipinto di una pittrice diastite traplegica. Il dipinto si chiama Donna africana, l'ha scelto lei, se l'è sognato prima di conoscermi, e ha detto che era perfetto. Io ho incontrato una donna africana un giorno in un ufficio, una bellissima donna col bambino sulle spalle. Sono rimasta senza fiato, mi è venuto da piangere, non so perché. Uscendo di nuovo la rincontro e le dico ciao, come se fosse un innamorato. E poi sono andata in macchina e ho pianto un quarto d'ora e non lo so perché. A questo episodio è dedicato questa poesia che vi intono. Le sue curve d'ebano come dune di fuoco, solchi regali nel traffico di sguardi non curanti. Il mio improvviso deglutisce a stento, sembra l'appuntamento con lo sposo promesso, con il figlio. Pare di udire il canto mio nel ventre della madre, il tamburo del cuore, il tamburo del cuore, il tamburo del cuore, il tamburo. Talassoterapica, direi, la terapia nostra, talassoterapia pura questa. Avete delle domande? Domande di qualche tipo? Beh, potete andare a vedere www.fantinelliliana.com, ascoltare perfetto qualche mia canzone e leggere qualche poesia. Grazie. Perfetto, grazie Liliana. Grazie. Passiamo ad Egle Bolognesi. Dov'è Egle? Vediamo questa, ecco, successione di poetesse, valenti poetesse, un libro interessante con un titolo, e poi sarà l'Aurora, un po' rischioso secondo me, perché insomma, però il contenuto è un contenuto che veramente apprezzato, che ricalca un po' come la Liliana Fantini un percorso diverso, perché sì, chiaramente certo, ogni poeta, ogni autore ha il suo percorso attraverso la vita quotidiana. Anch'esso, questo libro, diviso in sezioni e quindi ordinato, perché i poeti hanno questo bisogno di ordinare continuamente il proprio lavoro, forse sono ancora più dei narratori, ecco, devono riuscire a far stare, come diceva Calvino nelle lezioni americane, il mare in un bicchiere, ecco, questa è la capacità, ecco, per ritornare sempre all'elemento marino, la capacità del poeta. Ma lascio a te per l'introduzione sulla nascita, ecco, edito da un editore torinese, lo stesso che poi ha pubblicato, ecco, l'antologia di Parodi, in Premix Edizioni di Torino. Prego. Grazie, intanto ringrazio per questa bella occasione. Sì, io mi sento molto in linea con la poetessa precedente, perché infatti mettevo un po' insieme delle cose e mi veniva in mente questo. Io comincio subito con leggere il titolo, visto che il titolo è un po' così. E poi sarà l'aurora. E poi sarà l'aurora. Serafico sorriso di un giorno appena nato. Bagliore nella nebbia di un tempo ormai lontano. Sbiadiscono sbadigli di notti insonni e tese, intrise di vaganti pensieri, vuoti e persi, a ricercare brandelli di un senso del futuro. E poi verrà l'aurora, indomita riaffiora una speranza nuova. Allora, comincio dal titolo perché è un titolo che è venuto fuori così, nel senso che io sono reduce, perché questo mi viene da dire, da pochi anni, da una terapia pesante, ed è stata quella anche la spinta che mi ha portato a rimettere un po' ordine, no? Su tutte le cose che già avevo scritto. Questa è la poesia che io ho scritto l'ultimo giorno di terapia. E nel momento avevo radunato tutti i miei farmaci, tutte le mie scatole, tutti i miei blister, è venuto fuori una montagna. E da questa montagna io ho visto sorgere l'aurora, è questo la molla, sì, no? Che ha fatto venire fuori. E nel frattempo, in quel periodo, stavo leggendo un libro di Elio Franzini che ha come titolo Filosofia dei sentimenti, e mi ha colpito il collegamento che Franzini fa tra la poesia e la filosofia. Cioè lui dice proprio: la poesia è filosofia in quanto trasfigurazione immaginativa del nostro mondo circostante ed è una sua interpretazione espressiva. Quindi questo allineamento è proprio ciò che io sento che avviene nella poesia. E questa l'idea che poi mi è venuta mettendo insieme tutte le cose che avevo scritto è proprio nata da questo discorso delle immagini, cioè nel senso che io vedo le immagini, sento le immagini e dopo le scrivo. Quindi le parole in realtà vengono quasi in parte simultaneamente, in parte successivamente. Ma l'idea forte qui è stata quella del senso di rinascita e della speranza forte nella forza della vita. Nel frattempo io pratico buddismo, nel senso che pratico studi buddisti già da un po' di anni, e anche questo mi ha aiutato poi nello scegliere la copertina stessa. Quindi spiego anche perché questa copertina è così, nel senso che questo è un vero fiore di loto, la foto che io ho fatto, una foto mia, che sono andata proprio a cercare l'anno in cui ho deciso che sarebbe uscito il libro. Il fiore di loto ha un simbolo particolare negli studi buddisti, magari qualcuno di voi già sa, perché è il fiore che nasce dal fango. Quindi ha questa potenza incredibile per cui dal fango più nero, quindi dal buio, dal profondo, riesce a far spuntare un qualcosa di prezioso come il loto. E quindi questo è il motivo per cui ho scelto anche questa copertina. Quindi c'è un discorso complessivo nel libro, e anche l'interno, le quattro sezioni, che io più che sezioni definisco quadri, perché sono quadri visto che sono insieme di immagini, di emozioni e di sentimenti che raccontano un passaggio, quindi una storia, comunque di una vita. Anche nelle varie sezioni, in questi quadri, ci sono delle immagini. Ogni quadro, ogni sezione, diciamo, ha una foto, sono tutte foto che ho fatto io, e che hanno come temi il primo, quello delle radici, quindi c'è un'immagine proprio sulle radici, sono in bianco e nero, che rappresentano proprio l'inizio, no, della vita un po' di ciascuno di noi, ma sono sempre immagini molto, molto forti o comunque molto legate al discorso della vita. Poi si passa ad amore e dintorni, quindi al discorso di incontro, gli incontri che noi facciamo nella vita. Non c'è solo l'amore, c'è l'amore, ma c'è anche l'incontro con noi stessi, che avviene a un certo punto, o a volte non avviene mai, o a volte avviene ma poi uno non se ne rende nemmeno conto. Dopodiché c'è una terza sezione che riguarda stare dentro il mondo, quindi uno sguardo anche diverso, sempre legato alla forza della vita, a coloro che soffrono intorno a noi. E per ultimo l'ho definita la sezione quadro dei passaggi, perché almeno questo è quello che è capitato a me, però il messaggio voleva proprio essere quello che nella vita noi abbiamo tanti passaggi e continuiamo ad averne fino alla fine, non sappiamo quando è, ma il nostro è un continuo passare da una situazione a un'altra, da un'esistenza all'altra e da uno stato all'altro. Ma è anche un passaggio per me che ha rappresentato lo stile, perché ho cambiato anche molto, cioè nel senso che ci sono delle poesie che hanno un certo tipo, anche di impostazione, di matrice, altre che si sono anche spostate sul piano del gioco e dell'ironia. Quindi c'è anche un percorso che riguarda anche il modo attraverso cui uno sente di essere nella poesia e di come la poesia sta dentro di noi, no? Quindi c'è questo anche gioco delle parti. Per cui io adesso leggerei dalla parte alto, della prima sezione, ma salto un po', cioè nel senso che non seguirò un discorso per forza consecutivo, però ci tenevo a questa prima sezione perché è una poesia che ho dedicato a mio padre, ma che mio padre ha l'Alzheimer, e quindi, come sapete, è una malattia molto, molto potente da questo punto di vista. Però la poesia, proprio perché è filosofia, quindi ci fa trasfigurare la realtà e immaginare sul piano espressivo qualcosa di diverso. Questo è il modo in cui io lo ricordo e lo ricorderò. Gentil cavaliere, è quasi una danza, rasoio e guancia. Sul lavandino radevi la barba cantando motivi di tempi passati, il fronte, i soldati, la liberazione. Tapum, tapum, rimbomba il cannone e soffia, sì, soffia ancora la bufera. Un grito la barba ed io ti guardavo, bambina sognante, vedendo così un gentil cavaliere tornato da guerre, battaglie e fatiche per stare con noi in festa e felici. Ecco, questa è... Poi della seconda parte vi leggo una poesia che è sempre giocata sul buio e sulla luce, ma nel senso che c'è sempre questa luce di speranza comunque, no? Dentro di noi. Questa è una poesia che è stata inviata in Giappone al presidente della Soka Gakkai, che è l'associazione internazionale che è per il movimento della pace, eccetera. Tra l'altro in questi giorni c'è anche Senza Atomica come mostra a Torino. E la poesia si intitola La perla. Caduta è una perla nel fango, melmoso, e rotola, lenta, sprofonda e infine si adagia, avvinta dal limo. La luce che amica da sempre ne accende il biancore, ora tace, celata dal tetro grigiore. Ma ecco l'incanto, si tuffa una goccia in quel triste manto, è fresca rugiada. La perla si svela, accento di luce anche in quel grumo di buio profondo. Allora, grazie a Pietro Bolognesi, però una domanda che devo fare, ma soprattutto Maiangela Donne deve fare una domanda a Pietro Bolognesi che conosce, per questo motivo, anche se sa tutto, ci sarà una domanda retorica. Fai una domanda retorica. Una domanda invece, c'è anche nel titolo questa cosa che ti appartiene, il fatto che Aurora cosa significa? Sì, Aurora ha un significato, dunque, allora, io mi chiamo Egle Bolognesi e questo anagraficamente non c'è dubbio, ma io sono nata in casa e io sono ancora fra quelle nate in campagna, in casa, eccetera. Allora il mio bravo papà, quello del Gentil Cavaliere, quando è andato a denunciarmi all'anagrafe, ha incontrato mia nonna, buon'anima, che dice, no, mio papà, anzi mia mamma voleva chiamarmi Aurora, perché io sono nata all'Aurora, erano più o meno alle 5 del mattino. Ma per strada mi ha incontrato mia nonna e questa mi dice, ma no, vuoi mica chiamarla Aurora? Non esiste nessuno in famiglia che si chiama Aurora. Me la devi chiamare Edre come la mia povera sorella morta a 33 anni. E io ho avuto per anni l'incubo che a 33 anni spettavo. Questo per dirla in maniera, quindi ringrazio Angela per questa domanda. Allora, questo è un modo per riconciliare. Vedi che la sapevi la domanda. No, è stato il modo per renderle, insomma, le ho conciliate tutte e due. Anche perché io per cinque anni, anzi prima di andare a scuola, sentivo continuamente, ero chiamata Aurora. E quindi prima elementare, quando mi hanno chiamato, ho fatto l'appello, e per le bolognesi io non ho risposto. Cioè, alla fine, visto che non mi avevano chiamato, la maestra dice, ma c'è qualcuno che non è stato chiamato? E io ho alzato la manina dicendo, io, ma come ti chiami? Aurora Bolognesi. E quindi gli abbiamo capito. Visto che siamo entrati in questa vena ironica, ci sono due poesie che vanno in questa direzione, se vogliamo chiudere con una poesia che... Certo, di questo tipo, che è appunto quella del passaggio che vi dicevo, molto ironica, il titolo è, ma è, non fatevi ingannare, a te, caldo come l'abbraccio del sole ai primi germogli, morbido come seta che ondeggia in coppa, lucente come rugiada nella notte dei sensi, scuro come lo sguardo profondo di terre lontane, avvolgente come fragranza arcana e selvaggia, duro come braccia e mani callose e stanche, amaro come affondare in delusioni da esorcizzare, sensuale come il tocco di un amante ancora appassionato. A te, cioccolato! Bene, con questo concludiamo. Prima di tutto volevo ancora chiedere a questa bambina se ci sono sentite le poesie. Sì. Sì, ha detto sì. Facciamo un applauso alla bambina. Grazie a tutti per aver partecipato a questo Poetici Libri 5 e ci salutiamo davanti ai libri e buona serata. Grazie. Grazie. Ha detto sì, la bambina ha detto sì e questo veramente mi cuore. Veramente. Non gli ho dato